I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Apparently something dramatic happened during your interview with Channel 10. Yes, we excuse me, we were across the street. Insomma, questo che tossisce ve l'avevamo promesso, ve lo abbiamo trovato, ve lo facciamo anche sentire, anzi facciamoglielo sentire. Approximately 10 to 15 seconds to find shelter. Where? Ecco, adesso che ci sono i rumori possiamo tornare a parlare, perché intanto lui sta scappando. Di chi si tratta? Naturalmente di Joe l'idraulico. Vi avevamo dato con notevole rilievo, come si dice in questi casi, la notizia. Joe l'idraulico è diventato inviato di guerra. Siamo andati a vedere i suoi servizi. Tra l'altro, occhio, bisogna pagare, perché la televisione web che li mette in onda, che li trasmette, che li ha organizzati, che li produce, chiede soldini poi per farveli vedere. Però si possono vedere anche in versione short, come dire, certo non si ha il godimento profondo di un quarto d'ora con Joe l'idraulico, si hanno solo due minuti, però uno si fa un'idea e poi decide se investire parte dei propri risparmi in questo spettacolo. La TV si chiama Pajamas ed è una TV interessante, prima di tutto perché è un progetto interamente direzionato online, è un progetto di stampo conservatore, si occupa di politica, società, società, religione, grandi questioni, dibattiti, guerre culturali e cerca anche visibilità. Per cercare visibilità il suo amministratore delegato, che è un personaggio straordinario, lo stesso che ascoltavate in sottofondo intervistare l'inviato speciale Joe l'idraulico, con un direttore con insomma il borsalino in testa, la cravatta grigia allentata, un look da gangster, e poi appunto alcune acquisizioni che hanno fatto il giro del mondo, come quella di questo strano personaggio che, per chi non lo sapesse, lo ricordo, venne a ribalta un giorno nella cittadina di Toledo, Ohio, allorché fermò Barack Obama e gli disse: senti un po', ma tu vuoi mettere davvero le mani nelle nostre tasche con questa storia della ridistribuzione del benessere? E da lì uscirono fuori ogni genere di polemiche su Obama socialista, ma soprattutto Joe l'idraulico divenne l'ultimo bastione, no, di una possibile poi naufragata elezione repubblicana alla Casa Bianca 2008. Ma Joe l'idraulico ha smesso di essere Joe l'idraulico, è rimasto soltanto Joe con il suo impronunciabile cognome Wurzelbacher, ed è poco a poco traghettato nei media americani. Ha fatto un po' di talk show, parecchie apparizioni. Poi, dal momento che il suo personaggio indubbiamente funziona anche nella fattispecie in servizi di questo genere, come quello a cui abbiamo appena assistito, in realtà un collegamento da Sderot al confine Israele con la striscia di Gaza, che non avviene, perché non appena si apre il collegamento parte l'allarme, sta arrivando un missile, vediamo se possiamo ricominciare ad ascoltare il pezzo. Lui scappa, in realtà il collegamento è la storia della sua fuga. Excuse me, ecco, questo è lui che si collega. The house that we had just come from, the sirens went off. And when the sirens come off, being that close in that area, you have approximately 10 to 15 seconds. Ecco, avevo 10-15 secondi di tempo per scappare insieme alla troupe. Questa è la sirena. E questo è Joe, che viene prudentemente accompagnato dai suoi esperti locali in una sottoscala di cemento armato a proteggersi. Poi a quel punto dallo studio centrale non sanno bene che cosa chiedergli, perché non è che abbia molto da raccontare, e gli chiedono la più antica, gli formulano la più antica delle domande: che cosa hai provato mentre hai saputo che stava per arrivare un missile dalle tue parti? E lui qui è stato piuttosto sincero, ha detto: ma sinceramente ho provato paura, perché dice, quando sai che un missile sta per cadere sulla tua testa, il cuore, ti garantisco, che comincia a battere a mille. Ma poi dopo ha fatto anche insomma un po' di retorica, ha detto: ah, ero pieno di rabbia, non ho capito come, ho capito le ragioni di questa guerra. Insomma, è andato un po' oltre. Però volete sapere una cosa? Joe l'idraulico, nonostante come inviato, come corrispondente di guerra, per ora risulti un pochino improvvisato, ha quel magic, no? Quella misteriosa magia regia che risiede, nessuno sa dove, perché sennò l'andremmo a prendere tutti, e funziona. E mi sa che magari in teatri un po' meno impegnativi, magari un po' più legati, no, alla logica interna americana, ai problemi domestici, alle questioni del lavoro, della sicurezza, secondo me questo signore ha un futuro in TV. E comunque, se non avete ancora preso l'appunto, vi ricordo il nome del sito dove andare a vedere Giorgio Idraulico e le sue peripezie televisive. Si chiama Pajamas TV, PA Palermo, Ancona, il lungo Ancona MAS, Pajamas TV, e troverete facilmente il link per Giorgio Idraulico. Il giorno dopo si parla naturalmente di Hillary. This is a primary priority, as you know, of the incoming administration. The president-elect, Secretary Gates, lo stimabile informato sito Salon, un sito veterano del costume ma anche del current affair, della politica americana, oggi titola a Hillary con amore, e il sottotitolo secondo me dice perfettamente la verità, ovvero l'udienza della commissione per la conferma di Hillary Clinton che si è tenuta al Senato si è trasformata in un grande abbraccio di gruppo, no, per il nuovo segretario di Stato di Barack Obama. Di fatto è stata una vera e propria sfilata, insomma, le questioni, come dire, spinose sono state liquidate in modo piuttosto sbrigativo, ed è stata data grandissima esposizione invece alla strategia di Hillary Clinton per imboccare questo compito di grandissima responsabilità e anche di estrema delicatezza in un momento come questo sullo scenario internazionale, per la riqualificazione e ricollocazione naturalmente del posizionamento americano nei confronti delle aree di crisi. E ormai sono circa 24 ore, ma facciamo finta di averlo sempre avuto nelle nostre corde, non si parla altro che di smart power, no, in contrapposizione al soft power, che ormai fa tanto passato, fa tanto cose del modello dell'anno scorso, come si dice. Adesso l'etichetta utilizzata da Hillary per definire una superpotenza intelligente la cui forza sta nella diplomazia, queste sono le formule usate da Hillary per definire lo smart power, il potere intelligente che, di concerto con la visione di Barack Obama, dovrebbe ispirare le principali mosse dell'America sugli scenari internazionali. In qualsiasi situazione, ha spiegato Hillary Clinton, si deve prima tentare con la persuasione. Dopo 8 anni di isolazionismo dobbiamo costruire un mondo con più amici e alleati e meno avversari. Ma l'America non può risolvere i problemi da sola, e il mondo non può risolversi senza l'America. Hanno fatto molto effetto, sono stati accolti, mi sembra, piuttosto bene, facendo così un giro d'orizzonte sui media americani, i discorsi, le parole di Hillary Clinton. Ancora ha detto: per quanto impossibili da risolvere sembrino i problemi del Medio Oriente, e anche se molti presidenti, incluso mio marito Bill Clinton, abbiano cercato una soluzione senza trovarla, stack la frecciata, non possiamo arrenderci, dobbiamo cercare la strada della pace. Aperta parentesi, questo è un sottotesto, io sono molto in gamba, forse anche un po' più in gamba di mio marito. Ha parlato di profonda solidarietà a Israele nel difendersi dal lancio di razzi di Hamas, ha espresso solidarietà anche ai palestinesi, oltre che ai civili dello Stato ebraico, ha parlato del tragico prezzo del conflitto sul piano umanitario, ha detto: le sofferenze di palestinesi e israeliani sono un motivo di più per spingere con determinazione per una pace vera e duratura nella regione. È arrivata davvero preparata all'esame, come scherzavamo ieri con i nostri ospiti, ha avuto parole e accenni, come dire, sunti del futuro piano strategico un po' per tutti gli scenari, quindi la sensazione è che Hillary sia pronta a muoversi subito da martedì, se tutte le procedure andranno a posto, mentre procedure che hanno l'aria di essersi complicate maledettamente, e visto l'ambito specifico questo è sicuramente un grosso guaio, sono quelle che riguardano la designazione e l'approvazione di Timothy Geithner al segretario del Tesoro. Ci sono dei guai sulla sua strada verso la poltrona, guai che, permettetemi di dire, visti da qua fanno un tantino sorridere, visti da lì sono una caverna nella quale la candidatura di Geithner sembra essersi ficcata. In sostanza, avrebbe avuto una donna delle pulizie non in regola e non avrebbe pagato immediatamente i contributi quando era al Fondo Monetario Internazionale. Entrambe le violazioni, diciamo così, sono generalmente considerati, per tutto già riparati, ampiamente riparati, e in entrambi i casi errori commessi in buona fede. Insomma, avrebbe pagato un po' in ritardo i contributi, ma poi comunque li avrebbe pagati senza particolari sollecitazioni, e la posizione della donna delle pulizie sarebbe stata sanata in tempi brevissimi, fermo restando che una situazione di questo genere può essere una effettiva tagliola sotto le gambe di Geithner. E al di là della qualità del personaggio, che è stato presentato, anticipato con grande stima, con grandi aspettative nei confronti del suo operato, certo, a 3 giorni dall'inaugurazione, 4 giorni dall'inaugurazione, perdere per strada un personaggio che sicuramente era già operativo potrebbe essere un grosso guaio. Si vedrà nelle prossime ore gli sviluppi di questa situazione. Infine, chiudo saltando, rimandando ai prossimi giorni, uno speciale che intendiamo mettere in piedi al più presto, la questione Guantanamo, su cui tornano ripetutamente sia i media americani sia lo stesso staff di Obama. Sembra davvero possibile che uno dei primi, se non il primo gesto da presidente di Barack Obama, sia mettere quella firma sotto la chiusura del carcere militare situato nell'isola di Cuba, con tutto l'enorme dibattito sostanziale, formale, politico, legale che ruota attorno a questo argomento. L'approfondiremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con invece una cosa più leggera e forse anche un tantino vacua, un tantino vanitosa, ma come non essere vanitosi dopo un'impresa come quella che ha compiuto l'imminente presidente degli Stati Uniti d'America. Insomma, ha scritto e reso tristemente immediatamente pubblica una lettera alle sue bambine, Malia, 10 anni, Sasha, 7 anni, imparateli questi nomi perché ci perseguiteranno. La lettera non è finita nel cassetto o sulla scrivania delle bambine, ma su un giornale che si chiama Parade Magazine, credo sia un giornale per ragazzi. È piena di retorica, ma è piena anche di sentimento, di cuore dei papà, e quindi ne leggiamo qualche estratto. Dice Barack alle sue figliole: ci sono cose che io voglio per voi, voglio che voi cresciate in un mondo senza limiti ai vostri sogni, dove ogni obiettivo sia alla vostra portata, e voglio che cresciate compassionevoli, donne compassionevoli e dedicate che daranno il loro contributo per costruire il mondo. Del resto, bene o male, sono sempre le figlie del presidente degli Stati Uniti d'America. E ancora dice che la più grande gioia della mia vita è vedere gioia nella vostra vita. Io ho capito che la mia vita non conterebbe granché se non fossi capace, se non fossi in grado di assicurare a voi ogni opportunità di felicità e di gratificazione per il vostro futuro. Per concludere, ragazze, questo è il perché ho corso per la presidenza, perché questo è ciò che io voglio per voi e per i bambini, per i ragazzi, tutti i ragazzi di questa nazione. E come meglio se non dicendo mai chéri amour, possiamo festeggiare questa, diciamolo pure, melassa. Summer day, my share. lines on a crowded street. Ci sarà anche lui, Stevie Wonder, nel giorno della grande festa. Ci sarà anche lui martedì a cantare. Del resto lo ha già fatto a Denver, no? In occasione della convention democratica. Cantò, e come cantò, per Barack Obama. Adesso canterà per Barack Obama, presidente. My Cherie Amour, visto moglie e figli, moglie e buoi schierati tutti là dietro. Io la metterei piuttosto altina in scaletta. Secondo me, come si diceva un tempo, la fa. Prima pagina. Allora, per cominciare invece questa breve... Chissà che farà Springsteen. Che canzone farà? Se gli fa Born to Run. Non ne ho proprio idea. Allora, per cominciare invece questa rapidissima rassegna stampa cinese, voglio prima di tutto sottoporre quella che secondo me è una piccola furbata che hanno fatto i cinesi. Ci vedo magari un po' di malizia. Però cos'è successo? Insomma, in un periodo in cui la crisi incombe anche da quelle parti, qualcuno, tra l'altro degli intellettuali, si sono per esempio lamentati che la TV... c'è solo notizie buone, a volte un po' anestetizzate. Ecco che l'Istituto Nazionale di Statistica Cinese, praticamente l'Istat di Pechino, ha rivisto i dati del PIL del 2007 al rialzo, naturalmente, e questo permette alla Cina di superare la Germania, quindi di issarsi sul podio al terzo posto dietro Stati Uniti e Giappone. Si arriva quindi a una cifra record di 2.847 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2006 del 13%, che porta appunto la Cina a superare la Germania, anche se poi nel rapporto PIL pro capite, cioè, i tedeschi stravincono, perché sono 80 milioni contro un miliardo e passa di cinesi. Io invece vi racconto in breve di una pericolosa abitudine che sta prendendo sempre più piede a Hollywood, soprattutto fra quelli che, come dire, la carriera hanno già fatta in una certa età. Vi faccio i nomi: Bruce Willis, Russell Crowe e adesso l'ottimo Kevin Costner. Che fanno quando non hanno un filmetto da girare? Prendono la loro chitarra, se la mettono al collo, di solito si mettono anche un brutto cappello in testa e diventano cantanti. È capitato per l'appunto adesso anche a Kevin Costner, che ha non solo una tournée in corso, ma addirittura un pericolosissimo album in uscita con la sua band, che si chiama Modern West. Le recensioni sono letteralmente terrificanti, cioè lo fanno a pezzi. A pezzi mi sembra la parola giusta. Lui va avanti. Ho anche avuto modo di sentire un brano e la voce, come si diceva un tempo, non c'è, però sei sopravvissuto alla però scuola. Lui sopravvive e dice che se ne frega, perché tutto sommato dice: a me non interessa, le recensioni non interessano, a me le cose piace farle. Ecco, così a Hollywood si fa così. Vabbè, non so poi se in Cina si faccia allo stesso modo. Invece due notizie di sport. La prima riguarda Michael Phelps, direi il simbolo immortale delle ultime Olimpiadi di Pechino assieme a Bolt per l'atletica. Phelps 8 medaglie d'oro, record assoluto nel nuoto. Phelps torna a Pechino, torna sul luogo del delitto nella piscina del Water Cube per girare però uno spot pubblicitario bene retribuito. Farà uno spot per l'ultima macchina della giapponese Mazda e verrà pagato 1 milione di euro, che poi non è una cifra mostruosa per l'America, però per è la più alta, il più alto ingaggio per uno straniero in Cina, quindi anche questo un record segnato. Un milione per il mercato cinese. Per il mercato cinese è una cifra pazzesca, è un record anche questo di Phelps. Un'altra invece arriva per vie traverse da un canale sportivo canadese, si chiama TSN, The Sport Network, e riguarda quello che leggo essere un ex giocatore dell'NBA americana. Qui Stefano, chiedo il tuo aiuto. Si chiama Gabe Muoneke. Io questo te l'ho detto, non l'ho mai sentito. Secondo me è un panchinaro. La biografia proprio recita che abbia giocato a Houston, Charlotte e Utah. Adesso gioca nello Yunnan Running Bulls, ecco, squadra questo cinese. È anche un indizio. E cos'è successo? È finito picchiato alla fine di una partita il 28 novembre scorso dal più popolare giocatore cinese dopo Yao Ming, che si chiama Liu Wei, che gioca negli Shanghai Sharks, che sono a loro volta la squadra dove è nato e dove è partito Yao Ming. Insomma, c'è stata questa mega rissa alla fine della partita. Pare che fosse uscito dallo stadio già con moglie e figli, è stato picchiato da questo Liu Wei e altri giocatori. Alla fine squalifica di massa, multe salatissime e addirittura 100.000 yuan, che sono quasi 20.000 dollari, per la squadra degli Sharks, sicuramente protagonisti di questo episodio bruttissimo. Deve essere un tipaccio. He almost ran an open house in the Papal Palace, you know, and so if you were in town, you know, oh, come over for dinner, you know, we must talk. And in either case, life on this planet Earth and this planet Earth itself is... Dunque, questa è la voce di una importante figura della... della religione cattolica americana, di cui tra poco vi parleremo. Il suo nome è Richard John Newhouse, ma vi voglio raccontare come ci sono arrivato nel momento in cui l'annuncio della sua morte, 8 gennaio 2009, è approdata sulla grande stampa, sulla grande informazione di Oltreoceano. Invece di leggere un necrologio, sono incappato nell'articolo di un grande, forse del più stimato, editorialista del New York Times, che se è grande editorialista, beh, ogni tanto si ricorda anche di dimostrarlo. E per ricordare una figura alla quale evidentemente era molto affezionata, come quella di Richard John Newhouse, invece che appunto scrivere una banale memoria o un necrologio celebrativo, ha scritto una piccola storia, una piccola grande storia incentrata su un ricordo particolare di Newhouse, che riguarda un momento grave, difficile della sua vita, ovvero i giorni seguenti a delle cure molto dure, molto difficili per guarire da un cancro, guarigione che poi sarebbe avvenuta, e uno stranissimo episodio di un contatto, come dire, soprannaturale che quest'uomo, questo prete, ebbe appunto nella penombra di una notte nella sua stanza di ospedale, allorché due presenze di cui non riesce neppure bene a definire le forme, se non un vago colore tra il blu e il violaceo, con delle voci che non gli sembravano delle voci, ma erano di fatto delle voci, pronunciano una frase che poi Filippo e Giacomo, che è al mio fianco, ha immediatamente collocato nella sua giusta natura, e la frase è adesso ogni cosa è pronta. Insomma, poi se uno riguadagna un po' i propri studi, per quanto zoppicanti, effettivamente l'evocazione di Filippo mi ha aiutato a ricordare certe cosine. Ma adesso, per parlare di questa frase, che è stato poi il punto di ripartenza di Newhouse in un lavoro religioso, ma anche di comunicazione, che si è distinto da quel momento in poi, come diceva appunto poco fa nelle nostre chiacchiere private Filippo, nella ridefinizione, no, del senso del presente occidentale, questa può essere stato un modo di raccontarla particolare che questo editorialista del New York Times ha adottato. Innanzitutto, buon pomeriggio Filippo. Buon pomeriggio a te e a tutti. Allora, aiutaci, come sempre tardivamente accade, no, in morte, ma comunque aiutaci a capire meglio che cosa ha perduto la religione americana, naturalmente non solo quella, con la morte di Richard John Newhouse, e perché. La cultura occidentale ha perso uno degli esponenti di un fenomeno che è molto importante, che naturalmente è passato sotto i nostri occhi senza che nessuno dei narratori della nostra quotidianità se ne sia accorto. Così, nella sua dimensione culturale, è partito da lontano, partito dagli anni 60 con le grandi encicliche sociali di Paolo VI, un personaggio molto non solo apprezzato ma anche studiato. Per esempio, a me risulta personalmente che il vicariato di Roma, parrocchie, diocesi presbiteriane, episcopaliane, americane puntualmente inviano denaro perché venga incrementata la causa di beatificazione di Paolo VI, fenomeno che riguarda, quindi viene abbracciato dai protestanti e diciamo sì, viene sottostimato del tutto disinteressato dai cattolici, a parte gli diocesi di Brescia, credo. Certo, mentre gli per, motivi di origine. Ma Nios, tra l'altro, era un luterano passato. Sì, il percorso parte da lì, quando il figlio di un famoso segretario di Stato, Dalles, è morto anche lui qualche mese fa da cardinale, pur non essendo mai stato nominato vescovo, all'interno delle grandi facoltà teologiche delle università americane, perché le università americane hanno le facoltà teologiche, anche se non sono confessionali, Harvard si studia teologia, anche certo, se non certo, in chiave confessionale, così. Dentro questo mondo parte una grande analisi che poi, diciamo così, converge verso quello che in Germania viene definita, per quella branca della teologia, una delle più vitali, che è la teologia politica. Certo, spieghiamo che cos'è la teologia politica. La teologia politica è la teologia che presuppone una lettura valoriale dei segni della contemporaneità, diciamo reinterpretati non solo nel loro percorso storico strutturale, ma reinterpretati alla luce del Vangelo per un, per così dire, un programma, un disegno di interpretazione della storia con forma reale. Non... Ecco, ma andando alla pratica, per esempio, è uno studio che prevede quindi una tolleranza, una possibile integrazione tra Stato e Chiesa. Andando alla pratica, faccio un esempio. Quando Obama, Barack Hussein, giurerà come presidente degli Stati Uniti, spero non sia una provocazione, paese dove nell'attuale legislatura, quindi il Senato che legifererà durante questo quadriennio, è composto al 30% da cattolici, certo, erano meno del 10% ai tempi di Kennedy, certo, 27% di protestanti, nella somma dei senatori americani solo due dichiarano di non avere una motivazione religiosa nelle loro scelte etiche. Quindi diciamo una nazione che al 70% la domenica si alza e frequenta il culto domenicale, che viene considerato una sorta di dovere civico. Questa cerimonia verrà gestita, quindi è un paese confessionale, è un paese credente, è un paese fedele. Questa cerimonia verrà gestita da tre personaggi che sono: uno un omofobo, il secondo un vescovo episcopaliano, gli anglicani americani, divorziato, omosessuale, convivente e sposato civilmente con un omosessuale, e poi la terza una ministra di una confessione protestante che per anticipare l'Armageddon finanzia gli insediamenti ebraici sui territori arabi, anche se magari quei terreni vengono rubati ad altri cristiani magari di confessioni. Cioè lì abbiamo un utilizzo politico della religione, cosa che padre noi ha utilizzo mediatico della religione, cioè quando Dio va in televisione perde la religione e vince lo spettacolo, in realtà è qualcosa che sarà molto politicamente uno di quei tre preti, nella fattispecie Warren della Southern Church della Southern Neck Church della California, è stato capace di mettere 50-60 milioni di americani davanti alla televisione ad ascoltare due candidati alla Casa Bianca che confessavano i loro peccati. Anche questo può essere un modo, no? No, ma sì, ma questo si voleva dire a cosa porta praticamente la teologia politica: a non mettere tre segni ambigui, anche se politicamente corretti, su una realtà che invece presenta altri segni che saranno magari meno politicamente corretti, ma più legati al reale, alla storia. Beh, bravo, perché hai attualizzato estremamente, come dire, la dipartita di questo grande personaggio, facendoci capire che per esempio non sarebbe stato per niente d'accordo con quello che avverrà martedì prossimo a Washington, cioè con la voluta, credo desiderata e anche pianificata rappresentazione alle spalle di un presidente su cui si appoggiano tante aspettative, rappresentazione di una possibile religione americana vista come una complementarietà a giudizio sospeso. Tu mi sembra vuoi dire, ecco, un grande teologo americano come New House non sarebbe stato d'accordo. Ma credo che avrebbe anche evitato, se qualcuno lo avesse, diciamo così, interpellato di far commettere o di diciamo così, avallare gesti di quel genere. Abbiamo ancora un minuto, solo per tornare all'inizio di tutto questo discorso, ho citato questo episodio a cui David Brooks del New York Times si è ispirato per scrivere la sua memoria di Newhouse, in cui appunto c'è qualcosa di impalpabile, un po' di metafisico. Ce lo puoi po' collocare? Non so. Omnia parata sunt, tutto è pronto, la frase di Cristo prima di affrontare i giorni della sua passione, della sua risurrezione. E la morte come dies natalis, ed è anche più o meno il titolo di un saggio di Neuhaus, Rinascere nella morte, la morte come dies natalis, il giorno in cui si nasce, è per esempio nella teologia cristiana il motivo per cui, per ricordare un santo, si sceglie sempre il giorno in cui è nato al cielo, il giorno della sua morte terrestre, piuttosto che altri eventi. Tu hai conosciuto, mi hai detto, l'ho intervistato quando venne all'inizio degli anni 90 a Roma con Michael Novak a presentare la prima grande riflessione sulla centesimus annus. Diciamo così, è una persona molto discreta, Michael Novak diciamo è più mediatico, però nella triade dei grandi pensatori sociali cattolici americani dell'epoca, soprattutto Bush, era quello certamente più sostanzioso. Quindi una scomparsa che se non altro segnaliamo. C'è un libro che può essere segnalato a chi ci ascolta? Ma tutti i suoi libri sono stati pubblicati in Italia, credo addirittura dai grandi editori come Mondadori ed altri. Richard John Newhouse. Quit messing around with every man in town. If you want me, baby, you know I'll be around. Oh, it's a shame you keep playing games. Baby, stake your claim on me. Told you I love you, you just looked away. But when I went for the door, you begged me to stay. If you love me, baby, take my name. Oh, just stake your claim. Oh, stake your claim, yeah, yeah, yeah. Dunque ci arrivano come sempre ormai da tante fonti diverse i vostri contatti, i vostri messaggi, vediamo qualche sms. Dunque Simone da Ravenna scrive: Bruce Willis, Juliette Lewis non se la cavano poi così male musicalmente, in riferimento alla notizia del exploit, al contrario insomma del flop di Kevin Costner. D'accordino, mica tanto. Poi Simo scrive: Stefano, ma avete sentito il nuovo numero di Spider-Man con Obama coprotagonista? Che presidente poppissimo. Beh, cioè, come, Simo, certo, tu non ci ascolti con la dovuta fedeltà. Gli abbiamo dedicato una apertura alla storia di Spider-Man e dei due Obama, il falso dei quali viene individuato come, ma naturalmente in base a partita di basket. Ma ci metterei sopra anche un'altra notizia allora per gli amanti del fumetto americano, perché Stan Lee, sapete benissimo chi è, 86 anni, veterano, campione del fumetto supereroi americano e creatore di Spider-Man, sta pensando come ultima trovata della sua carriera di dare il via, di lanciare nel mondo del fumetto il primo supereroe gay, e ci sembra una notizia interessante, giusta. Dal suo team si dice: è solo questione di tempo e presto avremo pronto il nostro primo supereroe gay, e se c'è un uomo che potrà fare di lui un successo, questo è Stan Lee. C'è ancora segreto assoluto sul nome del supereroe, del primo supereroe gay, anche se troviamo un tantino sdato, no? Un po' ventesimo secolo questa ancora definizione per gusti sessuali. Di fatto Stan Lee ha 86 anni, a questo sta lavorando, e sul nome, ma forse sono dei suggerimenti, non so. No, non c'era già Batman come ipotizza il perfido Emiliano. D'altra parte, Del Vetro invece c'è un ospite in attesa che chiamiamo immediatamente in causa e lo ringraziamo per essere con noi in trasmissione. Mario Portanova, giornalista, collaboratore dell'Espresso e di Diario, anche lavora a Blu Notte su Rai 3 con Carlo Lucarelli e ha pubblicato un libro insieme a Lidia Casti intitolato Chi ha paura dei cinesi, da Rizzoli, e lo abbiamo chiamato in causa perché un corposo articolo del Corriere della Sera di un paio di giorni fa ha ritirato fuori una storia che ci è cara, ovvero quella di Milano, di Via Sarpi, di Chinatown, ed è un articolo un po' pessimista, no? Come se veramente non ci sia mai gioia o tranquillità nella Chinatown milanese, perché insomma le varie strategie per in un certo senso recuperare dalle mani cinesi, se mi passate l'espressione, il controllo di quella strada e quella zona, pare non stanno andando a buon fine, ma è veramente necessario seguire questa strategia, se la strategia che ho appena enunciato è corretta. Buon pomeriggio Mario. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. Dici un po' tu che sei più vicino alla storia, come stanno le cose e se è vero che c'è questo tira e molla e poi questa costante inquietudine in quella zona. Ma allora, la cosa che mi è venuta in mente, appunto passandoci recentemente, è la famosa frase: hanno fatto un deserto, fecero un deserto e la chiamarono pace, perché adesso la via appare appunto deserta, non ci passano più i veicoli, poi un po' a Milano ha nevicato e comunque sembra una via quasi morta. Mentre era un posto piuttosto vivace, mi ricordo esserci stato, insomma un posto anche piuttosto divertente. Infatti, e sono molto scontenti anche, come diceva appunto il pezzo del Corriere della Sera, i commercianti italiani, perché denunciano già una grande riduzione del giro d'affari, perché poi insomma se le persone non ci vanno né per comprare dai cinesi né per comprare dagli italiani, per cui l'impressione appunto è che diciamo sia stata adottata dal comune una soluzione troppo lontana dal problema, cioè per mandar via hanno fatto un po' il contrario di quello che diceva Mao diceva colpirne uno per educarne 100. Il comune di Milano ne ha colpiti 100 per educarne qualcuno che peraltro non si è educato, perché i grossisti più o meno sono sempre lì. Qualcuno si sta trasferendo fuori in un comune che si chiama La Chiarella, in una struttura tra l'altro della Fininvest, un vecchio centro commerciale della Fininvest, e poi stanno aprendo nuovi negozi che non sono più grossisti di abbigliamento eccetera, ma sono negozi al dettaglio di computer piuttosto che di altre cose. Quindi un bilancio non lusinghiero dell'iniziativa del comune. Ecco, noi Mario stiamo seguendo questa storia ormai da anni, fin dai tempi dei famosi disordini a Via Sarpi, ma quindi per attualizzare lo stato delle cose a inizio 2009 vogliamo dire che tutto sommato questa fluidità insomma nel rapporto fra la città originale e questo insediamento non si continua a non trovare, almeno in quelle strade? No, non si trova, ma secondo me ha ragione Daniele Cologna, che è un sinologo esperto di quella zona milanese, esperto di quella zona, che è stata un po' fatta una falsa rappresentazione del problema. Lì il problema non è tanto cinesi contro italiani, mm-hmm. perché lì ci sono i residenti che sono per il 95% italiani e quindi non è una Chinatown a tutti gli effetti, e ci sono tanti i commercianti, diciamo, sono 50% italiani e 50% cinesi. La vera contrapposizione, oggi lo vediamo chiaramente, non è cinesi contro italiani, ma residenti contro commercianti. E questa è la questione. E quindi ridurlo a battaglia Italia-Cina è fuorviante. Certo. E oggi ne abbiamo la dimostrazione. Commercianti italiani e cinesi sono insieme, stanno peraltro anche nelle stesse associazioni di categoria, insieme, mm-hmm. e protestano contro la ZTL, mentre invece sono i residenti quelli che vorrebbero più volentieri mandare via il commercio cinese, che deprezza un po' la zona, perché in effetti l'impatto estetico non è un granché. Arrivano dei messaggi a riguardo, uno di Roberto dice: senza mezzi termini, Paolo Sarpi è diventata uno schifo. Se tu con la base, sulla base della tua esperienza, insomma, di quello che vedi e di quello che immagini, volessi presupporre gli sviluppi di un immediato futuro della zona, che cosa ti viene in mente, Mario? Allora, se posso una piccola cosa. Certo. Il messaggio, anche se è un po', diciamo, forse non è politicamente corretto, coglie una cosa, perché il vero problema di Paolo Sarpi, e io da milanese me la ricordo com'era 20 anni fa, era un posto bello, piacevole, pieno di salumieri, boutique, cose artigianali, eccetera. Adesso esteticamente è brutto, perché il negozio, mediamente i negozi cinesi sono effettivamente brutti e i grossisti sono ancora più brutti e spogli degli altri. Per cui quello è il vero problema, secondo me, che dà fastidio ai residenti. Sul futuro, a me sembra che alla fine non cambi granché, e per tanti motivi. Primo, perché il comune va a intervenire su un'attività che è l'ingrosso, che è già in declino per ragioni economiche che non hanno a che fare, diciamo, con, certo, con le diatribe con i residenti. C'è già in atto uno spostamento che però è centellato. C'è la crisi, e quando c'è la crisi pochi investono in un trasloco di un negozio. Cioè c'è una situazione di attesa in via Paolo Sarpi. Va bene, va bene. Io non credo che in pochi mesi possa cambiare, proprio perché a tutti i problemi si è aggiunta la crisi economica, che fa sì che tutti italiani e cinesi stiano un po' fermi ad aspettare. Grazie a Mario Portanova. Vi ricordo ancora il titolo del libro che ha scritto, Chi ha paura dei cinesi, edito da Rizzoli. Noi con Jefferson Ming seguiamo questa storia praticamente dall'origine, in un certo senso l'accompagna, continueremo a seguirla. Oh, devo dire che Simo, che si è macchiato, ascoltatore molto fedele, si è macchiato poco fa di grave colpa, avendo mancato, insomma, il nostro fondamentale servizio su Spider-Man e Barack Obama, si è rifatto prontamente con una proposta di nome per il nuovo supereroe gay creato da Stan Lee. Mi sembra degna, sinceramente, di nota, anche di lode. La proposta dice, scrive, lo chiamerei Supermatta. E lo armerei di ombretti, ombretti laser e tacco 10 che può essere sparato. Interprete per l'adattamento cinematografico Brad Pitt. Mi sembra che siamo sulla buona strada. Naturalmente il dibattito, immagino, diventerà presto rovente sul supereroe gay. Del resto l'America è anche questo. Questo è anche Jefferson Ming. Io sono anche Stefano Pistolini. In redazione c'è Emiliano Enrico. Tutto in un pezzo. In regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro Lacorte. La mail jeffersonming@radio24.it, ma soprattutto due siti Facebook, una bacheca che si chiama Jefferson Ming Radio 24, è un contatto diretto con noi, la redazione, si chiama Redazione Jefferson Ming. Scriveteci e vi verrà risposto, sottoponete, parliamo, discutiamo tutto il resto. Andiamo in replica stasera alle 9, in diretta alle 4, domani qui su Radio 24, a risentirci. Sure, 生养心，沉默的人最聪明。